di amanti, vile poeta immortalò. E chi io ripenso pallidi e tremanti come amore di avvinghio, porco ascolta questa volta la nuova storia che narrare ti vo. Dell'eco che dice cuore tuo e spasimi con me, sopportare il mio dolore, cuore, tu sai perché non bevo e sono ubriaco, non gioco e perdo il gioco dell'amore. A queste rose gialle la speranza d'un chissà, e la canzone mia si perde a valle con la mia felicità. Ora nona suona, suona e dimmi ancora e pare di non verrà. Spasimi con me, sopporrete il mio dolore, cuore, tu sai perché non bevo e sono ubriaco, non gioco e perdo il gioco dell'amore. Color fuoco